avanti. Chi è su 10, avanti. Ebbene, non cruci più. Cazzo di imbecille, le diamo di bobo. Cruci, e la buia, ma vuoi bruciato, non lo so più. E parla se deve parlare, se no fai una ramara.